Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che Dio mi stramaledica, ma perché? Ma perché vi frequento io? Privilegiati depressi, eccoli, fanno pure più schifo dei privilegiati contenti. Non se ne può più, non se ne può più di te. E anche di Sergio, bello che è morto. E soprattutto non se ne può più del dolente erudito, il quale si capisce, ce l'ha solo lui le idee giuste. Però, poverino, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili, perché altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto egli, lui, questo inesorabile, e fatemelo dire perché sarò schiatto, questo implacabile stronzo. Ma di chi parla? Di me! Non vi voglio più vedere, non vi voglio più sentire! Voi rivedete stralci della vostra vita, della vostra esperienza, della vostra esistenza, in questo Gasman, sulla terrazza. Un quadro imperituro e immarcescibile della società italiana, della società che conta, della società che determina il livello di cultura, di percezione, di giustificazione sociale. Beh, questo se l'ha inventato Ettore Scola. Questa mattina vedete i giornali pieni di grandi coccodrilloni sull'addio al maestro del cinema italiano. Era indubbiamente un grande maestro del cinema italiano. Questa mattina non vogliamo anche noi prodigarci nelle commemorazioni. La maniera migliore per parlare di un artista, di un uomo che ha raccontato il suo punto di vista attraverso il cinema, è guardarsi dentro e vedere quanto è rimasto in noi di quella persona lì. Quanto del cinema di Ettore Scola, che ha raccontato indubbiamente l'Italia e gli italiani, è legato a una vostra esperienza personale, a un momento della vostra vita. Quanto vedete riverberare e riflettere in un film di Ettore Scola. Noi vi diamo degli spunti, gli spunti ve li do insieme a Giuseppe Sansonna. Ciao Giuseppe, che è qui con me, pronto e documentato. Cominciamo sulla nostra esperienza, poi vediamo gli ascoltatori come ci seguiranno. La terrazza è il film che ci sentiamo più vicini, diciamo la verità, perché c'è tutto. Ci sono tutte le velleità, tutte le persone che abbiamo conosciuto negli anni della nostra vita, tutti gli infami che ci abbiamo visto calpestarci sulla testa senza merito, tutto quello che noi stessi molte volte abbiamo pensato d'essere semplicemente perché ci mangiavamo il tramezzino con la vista sul cupolone. Cominciamo a contestualizzare la terrazza, vediamo se questo punto di Scola ha delle connessioni con i nostri ascoltatori. Siamo nel 1980, sta iniziando il riflusso e Scola racconta questa visione corale in cui c'è il deputato comunista Gasman che ha le prese con le sue pulsioni sentimentali amorose e che contrastano con l'ideologia, quindi fa questa impietosa e cruda autoanalisi a fianco ai mammiferi. Pensa quanta attualità indicibile c'è in questa frase. Sì, quanta attualità, ma anche quanta capacità di tastare il polso del proprio tempo. È una terrazza pre-sorrentiniana, terrazza realistica, non è sognante, sospesa, mortuaria, affascinante come quella sorrentiniana, ma è molto legata al tempo, a come stava evolvendo, come stavano evolvendo gli intellettuali dell'epoca. Almeno la figura di Gasman ha il coraggio, ma è anche una plateale dimostrazione teatrale, di darsi dello stronzo. Altri ne saranno capaci. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Di Wittgenstein. La gabbia del linguaggio si frantuma anche con il comico. Guarda Totò. Ma che c'è che Totò con Wittgenstein? Anche la commedia di costume ha contribuito a formare una coscienza democratica. Ah, bella coscienza democratica ci hanno fatto. Ah, si è stato vogliato. Beh, ringraziate Enrico per il bel paese di merda che siamo. Thank you, merci. Ma che fate? Non avete vergogna? Siete anche amici. Io non sono suo amico. Stalinista. Mi fa schifo. Questo sei stalinista. Io? Stalinista io? Tu? Stalinista. Calmati. Sembra il dibattito all'interno della sinistra sul caso Checco Zalone. Stavo per dirti la stessa cosa. È incredibile quanto nulla. Hai sentito il sottofondo Lucio Dalla l'anno che verrà? Era proprio il tempo che si stava descrivendo quella. Però qui ecco la differenza con Checco Zalone, che questi film finivano amaramente, ecco, e venivano visti da grande pubblico, avevano un grande successo commerciale, però tagliavano, ferivano, non consolavano. Beh, noi stiamo vivendo il decennio della vasellina, è chiaro, è normale. Sì. Hanno capito quanto faccia male prendere un duro contatto con la cruda realtà, e quindi è il decennio in cui serve sempre una ditata di vasellina alla fine, certo. Scola veniva dal mondo del fumetto, dalla narrazione anche tipizzata che condivideva con Fellini, quindi racconta questo espressionismo disegnato, fumettistico, e La Terrazza è un film corale che è perfetto in questa direzione, nel raccontare diversi tipi che però non hanno la maschera superficiale che può avere Checco Zalone, sono molto anche legati a una concretezza umana e per quello sono riconoscibili. Ti hanno appena insultato, ti hanno dato del foggiano. No, ancora, insultato no. Però, ancora Sansonda, basta, vi prego, il suo accetto pugliese foggiano è inascoltabile, sì, sei di Bari. Sono di Bari, sì, che c'entra Foggiano. Però Foggia sono legato spiritualmente per lavori fatti, per Zeman, per questioni... però sono barese. Quindi. Allora, andiamo avanti, 800240024, noi proseguiamo sulla nostra onda e sulla nostra frequenza, è chiaro, voi avrete altri tipi di esperienze, avrete altri mondi descritti, raccontati o allucinati da Ettore Scola, che però avete attraversato, sentito. Noi continuiamo a darvi degli spunti, aspettiamo che apriate la vostra tenera boccuccia e diate sfogo alle vostre inesprimibili sinapsi. Andiamo avanti. Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Su che? Su lui. Sugli albi di fotografie. E cosa cambiava? Cambiava che non vi facevo entrare in casa mia, ecco che cambiava. Ma di che ha paura? Lei è così sicura delle sue idee? Sì, signore. No, quella roba non è mia. Però non mi va di discutere con uno come voi, che critica tutto, prende in giro tutto. Voi scherzate sempre sulle cose che non c'è niente da ridere. No, guardi, io non rido sempre. Veramente non ho motivi per ridere. Lei piuttosto perché non ride, eh? Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito, 6 figli. Ma perché non ride? Eppure questo fatto del lei, lo sapete che è proibito, no? Che è obbligatorio darsi del voi. Niente, pare che lo fate apposta. Ti pongo il destro. Prima pagina del Corriere della Sera, abbiamo sentito la notizia anche al giornale radio che ci ha preceduto. Dopo Inter-Napoli, che non so nemmeno di cosa sia, sì, hanno litigato due personaggi. Un certo Sarri ha detto, sì, a un certo Mancini sei un finocchio. Sì. Guarda quanto è il segno dei tempi legato appunto al pregiudizio nei confronti della persona con, sì, passioni, diciamo, omosessuali e la giornata particolare. Ma nel caso di quello che è successo ieri, il mio parere è che c'è una trivialità mostruosa che fa parte del mondo del calcio, che però in genere così, ritualmente, vabbè, gli spogliatoi sono sempre ritualmente fa parte del gioco di siccome essere, è un delle fantasma, orrende, che, è un fantasma che si aggira concreto e palpabile sotto le docce del calciatore, chiaro, come le salesiane, però si dicono finocchio, è chiaro. A parte le insinuazioni. Andiamo però alla giornata particolare. La giornata particolare invece è molto più interessante. 6 maggio 1938 arriva Hitler a Roma e Scola racconta questa giornata particolare, questo incontro su un'altra terrazza, però questa volta solitaria, siamo nel 77, nella realizzazione del film, e Mastroianni è questo omosessuale che sta per essere mandato via al confino e incontra questa realistica Sofia Loren, che ha smesso di essere una maggiorata, le sue occhiaie l'hanno invecchiata artificialmente per quel film. Aveva la fatica di essere appunto una madre che ha dato i figli alla patria e anche questo marito che appunto è alla grande adunata per Hitler, e vivono questo momento in cui le loro solitudini si sovrappongono, si incrociano per un attimo, ecco, è l'istante che Scola riesce a raccontare. C'è anche, scusa, dimmi maliziosamente, lei tenta una redenzione dell'omosessuale a un certo punto. C'è una delicata attrazione fra i due, chiaramente, poi tra l'altro loro erano le due icone dell'Italia, no? Sofia Loren e Mastroianni rappresentano, ecco, la capacità e il coraggio anche di rovesciare la propria icona, sia da parte di Scola che da parte dei due interpreti, no? Giocare anche con se stessi, un coraggio che oggi manca un pochino. Fu il protagonista del celeberrimo Spogliarello, fu anche, certo, ripetuto, capito? Lì è una tutta un'altra situazione. Qui sono deerotizzati allo stesso tempo, però sentimentalmente uniti, è il rovesciamento del loro cliché solito. 800240024, mi rendo conto questo è un argomento scabroso da paragonare a vostre esperienze personali, però andiamo avanti nella descrizione degli italiani di Ettore Scola, in attesa che gli ascoltatori trovino qualche spunto in tutto il cinema di Scola, che sicuramente loro conosceranno, avranno conosciuto, vi stiamo dando appunto dei cenni. Allora andiamo avanti con un altro film. No. La mia fettina. Ma perché me la levi? Ti pare troppo cicciotta? No, ma è proprio quello che non devi mangiare, grassi e carboidrati. Ah, oh, io sto a leggere quel libro che mi hai dato. Molto tosto, eh. Dumas tosto? I Tre Moschettieri. E tu non mangi? No, ma grazie, non posso mangiare idrocarburi. Come ti sbagli? Tante volte mi domando, io che sarei se Gianni si sarebbe sposato a un'altra donna? C'è sempre l'ascoltatore che è rimasto nella sua terrazza che ci scrive: preferisco Aristofane. Aristofane c'entra anche. Sì, sì, ma si può proiettare sul muro di casa sua, sì, non so, con la lanterna magica. La scuola aveva digerito, ingoiato Aristofane, come, cioè, come questa gente con grande cultura classica. Questo era, c'eravamo tanto amati, dal 74 fino in generazionale, in cui emerge anche l'abilità che ricordiamo anche di Scola sceneggiatore, di Io la conoscevo bene, del Sorpasso, è stato un grandissimo sceneggiatore. Qui c'è anche il dialogo, la costruzione di un linguaggio, il gioco con il linguaggio. Giovanna Ralli che parla di carboidrati e idrocarburi, perché è una burina, la figlia del capomastro Aldo Fabrizi, il batrace gigantesco. Che anno siamo? Siamo nel 74, stiamo raccontando però... Ecco, pensa quanto è antico e radicato quello che sembra un moderno atteggiamento verso la forma fisica. Allora già nel 74 si cominciava a parlare, dopo gli anni in cui Totò si mangiava gli spaghetti a manciate perché era il simbolo dell'uscita dalla grande fame. Scola ha raccontato l'uscita dalla grande fame nei suoi film. E nel 74 però già qualcuno cominciava a parlare del carboidrato come il terrore, il nemico della forma fisica. Bravissimo, perché appunto invece Fabrizi incarna il batrace che deve divorare il cibo perché viene da un'antica miseria, attraverso, facendo il palazzinaro, devastando Roma, sta acquisendo carboidrati e anche cemento e anche denaro in larga quantità. L'illuminato avvocato Gassman, il partigiano, davanti alla possibilità di arricchirsi sposando questa donna distantissima dalla sua cultura, dalla sua sensibilità, però ecco, appende il cappello, come si dice a Roma, in casa Fabrizi, e diventerà poi l'erede, sacrificando i propri ideali. Questo film racconta un po' la disillusione di ogni generazione, ecco, è eterno perché ciclicamente a spirale racconta il disincanto. Beh, negli anni 70 ancora c'era questa coda abbastanza lunga del reducismo, dell'una e l'altra parte, capito? Il reducismo nostalgico per la battaglia perduta, o perlomeno della guerra non finita, e l'altro reducismo altrettanto nostalgico per l'altra guerra non finita, la rivoluzione mancata, la coda lunga. Poi lentamente il ventre grasso del benessere assorbirà tutto e metabolizzerà tutto, naturalmente. Adesso ci vorrebbe una di quelle dormite. Ecco, ci facciamo dare una bella cameretta, eh? Andiamo? Sì, ma bisognerebbe dormire, mica fare quello che pensi tu. E poi lo sai che fare l'amore subito dopo mangiato fa male? Si può anche morire. Eh no, Margherita, tu muori se non lo fai l'amore. Tu scherzi, ma io parlo sul serio, sai. Un nostro conoscente, un funzionario, uno della televisione, ci è rimasto secco. Beh, è sempre una bella morte. Parli bene tu, ma a me non ci pensi? Ma te l'immagini io lì sola, col tuo cadavere? Oh, mannaggia. Prima quello che ti violentava, adesso io che crepo in una camera a ore. Ma che leggi tu la sera, eh? I verbali del buon costume? Certo, mi rendo conto, Giuseppe, proprio commentiamo il pezzo di film, che esiste un doppio passo nel nostro paese. Un passo è quello che oggi riempie le pagine dei giornali di lacrimosi ma meritatissimi epitaffi sulla scomparsa di Scola. L'altro passo è la gente che ci ascolta, che è prontissima a intervenire su ogni argomento con altissime competenze. Possiamo parlare di cacciabombardieri, chiamano sei piloti di cacciabombardieri. Parliamo di Checco Zalone, improvvisamente tutti hanno una loro esegesi su Checco Zalone, ma parliamo di bullismo e qualunque cosa. Parliamo di Ettore Scola. Mi sembra la percezione prima che ormai faccia parte di un passato che rimane soltanto nelle rievocazioni storiche. Hai questa impressione? Forse perché nei pacchetti e nei bouquet Sky non ci sono più film di Scola, ci saranno magari una giornata in Rai non passano più film di Scola, le nuove generazioni non gliene importa nulla, preferiscono le letture veloci dei ragazzi The Pills o cose del genere. Forse hai ragione in parte credo che non si associ tanto al regista quanto a scene madri che fanno parte del tessuto, della memoria, del tessuto connettivo italiano, che magari uno non associa direttamente a Scola, però ognuno inconsciamente sicuramente le ha divorate queste parti, queste scene madri, e le vive nel proprio linguaggio. Però diciamo che è un nome che rimane nelle sacre lapidi degli eroi dell'immaginario italiano, ma mi sembra... Ormai la percezione che ho, trentennale del pubblico della radio, mi sembra che nella percezione generale ormai sia un nome che non è così sentito come in realtà è sentito dalla rievocazione. anche se questa clip che abbiamo ascoltato in realtà appunto racconta un personaggio fiammante e ancora vivo, cioè è la riedizione di quello che lui aveva già sceneggiato con il sorpasso, cioè il Gasman in Spider che porta Silva Coscina con la fregola di portarla in un albergo a ore, però lei prima mette tutta una serie di problematiche, tentenna e lui è costretto appunto a rinviare questa copula in eterno finché poi stanco, mentre sta salendo a prendere una camera, si intratterrà con la cameriera. Si intratterrà con la cameriera, sì, sì. Si intrattiene con la cameriera e quindi chiude la giornata così, lasciando delusa appunto la sua partner. Raccontava nel 64. Si chiama Il contrappasso della profumiera, o La figa, sì, di legno. La figa di legno. Il canto sesto, sì, il canto sesto. Ci fermiamo un istante, tra poco. 800 24 00 24, bontà vostra. Melog, cronache meridiane. Questa è casa mia, frappicata con le mani mie, pantone su pantone, e voi ci abitate come all'albergo, a gratis, e senza cacciare una lira. Bello, bello, zio, bacioccone, brrr, io me lo mangerebbe, bello, oppla, oppla, dolce. Oh, ma che è nato, ma io ho il sangue alla testa, no. Oh, asci, ma che è da strillo. È buco, no. Infatti, capirai per quello che stai costando. Ma vada. A Gaetano, mi votaste 5.000 lire, sì o no? Il milione è mio e nessuno me lo tocca. Almeno dammene 3.000. Lottatori profittanti. Dammene 2.000, sennò come ci vado a cercarmi il lavoro? A piedi? Che cerchi? Che cerchi? Tu cerchi lavoro e preghi la Madonna di non trovarlo. E voi fate vedere. Adesso vi faccio un esempio. Eliminare di Viale Mazzini, dove si allarga Piazzale Clodio, inizia la boscaglia del parco di Monte Mario. Ogni sera rientrano come formiche, riescono ogni mattina, nugoli di rumeni con il carrellino che sono accampati fra le frasche, dentro ci sono baraccamenti, tende, ma sono tanti uomini, donne anziani, escono con quei carrellini e vanno a rovistare nei bidoni della spazzatura. Tutti noi abitanti del quartiere Prati li guardiamo e ormai abbiamo imparato a considerarli come parte integrante del paesaggio, però vediamo una differenza fra noi che buttiamo ogni sera il pattume in quei bidoni e persone che pronte come faine vengono e lo raccattano dopo un'ora. A un colpo d'occhio da questo scenario che ho descritto, che è contemporaneità, Valle Aurelia, esisteva un baraccamento fino all'inizio degli anni 80, fine anni 70, dove italiani vivevano nella stessa condizione, abbarbicati fra le frasche, baraccati con una promiscuità terribile, vivendo di espedienti e di rimasugli di quello che rimaneva da società opulenta, che da Valle Aurelia in giù rappresentava la Balduina, i quartieri della Italia ricostruita. Era a Monte Ciocci, dove c'erano gli operai appunto di Valle Aurelia, e vedevi San Pietro a vista, no? Dalla baracca potevi vedere San Pietro. Qui siamo nel 76. Scola inventa un Manfredi pugliese che parla questo pastiche, un appunto sottoproletario iper espressionista. Nel film c'è anche Ettore Garofalo, figura pasoliniana, quello di Mamma Roma. È morto Citti da poco, Franco Citti da poco, quindi il proletario, il sottoproletario metafisico di Pasolini di 15 anni prima cede il posto a questo fumetto terrificante che anticipa Cipriano Maresco, che crea Scola. C'era anche il ragazzo si travestiva e andava a prostituirsi, si vestiva la donna e andava a prostituirsi, quindi già dagli anni 70 c'era questo fenomeno. Sì, però è tutto calcato, tutto anche disturbante. Il pregio di questo film è di conservarsi ancora oggi disturbante. Certo, calca tutto molto, anche quando vanno al mare. Il mare è sempre limaccioso e tetro, si vomita per disintossicarsi dal tentativo di avvelenamento familiare. Sì, per rubargli i soldi lo avvelena questa famiglia orribile, capito? E lui arriva al mare, si infila il dito in gola, si fa una specie di lavanda gastrica con la pompa di bicicletta, con l'acqua salata, vomita e si salva. Esatto, e questo affresco corale che appunto uomini del PC offrivano dalla loro visione maturata a metà degli anni 70 del proletariato e del sottoproletariato. Ma c'era sempre una puzza sotto al naso terribile. Era qualcosa che loro guardavano, ma come si guarda la crosta di formaggio che si butta sotto il tavolo per il cane. Non era roba che gli apparteneva. Beh sì, il distacco di costruirli come fumetti faceva parte del cinico disincanto. Sono disturbanti, sono sgradevoli, questo rimane come pregio. Erano perché brutti, sporchi e cattivi. Esatto, aprono una piaga, ecco, la offrono la piaga, mentre Cipriano e Malesco porteranno questo all'estremo, trasformandoli in icone. Ti do un altro spunto frontali. Di attualità: il giorno che arriva la pensione della vecchia sulla sedia a rotelle, tutta la famiglia corre e la porta alle poste per ritirare la pensione, sì, su cui vivevano tutti. Certo. Dato di estrema attualità. L'Umarell che mantiene la famiglia dei nipoti disoccupati. Sì, lo stato sociale. Ecco. Luigi, buongiorno. Buongiorno, sì. Lei è il primo coraggioso questa mattina che ha voglia di parlare di scuola. Certamente sì, posso dire questo, gran parte delle battute che stanno nei film di scuola sono diventate parte del nostro linguaggio di famiglia. Facciamone qualche esempio. Per esempio la più bella di tutte è quella di "Riusciranno i nostri eroi", a un certo punto Alberto Sordi per dire che la guida portoghese era... diciamo, beh, adesso si dice va uno stronzo, usa tutta una circonlocuzione dicendo i lunghi silenzi della savana hanno reso questi uomini taciturni, impenetrabili, e poi sotto sotto dice è anche un po' stronzi. Allora diciamo questo taciturni, impenetrabili, è diventato la nostra famiglia un po' il modo tra me, mia moglie e i miei figli, quando ci sono altre persone sulle quali vogliamo esprimere il suo giudizio, ce ne usciamo questa cosa qui, siamo nei lunghi silenzi della savana, ovviamente c'è come per dire sono degli stronzi, che quell'altro capisca, ma diciamo è un lessico familiare per dare degli stronzi, sì, agli ospiti, sì, ma ce ne sono tante. Nella terrazza c'è quella lo sceneggiatore che dice non posso scrivere cose che non fanno ridere, e allora quando mi vedono che scrivo i miei nipotini mi dicono che fai nonno, io dico non posso scrivere cose che non fanno ridere, e così via con mille altre, ecco, cose bellissime. Luigi, però lei si trova in una situazione di privilegio, una famiglia in cui c'è una raffinatezza di punti di riferimento, una ricercatezza, una sorta di gusto per lo spirito d'antan, perché oggi uno farebbe le battute che ne so, sulla crasi dei cinepanettoni con Boldi De Sica o De Sica e altri suoi colleghi. Ecco, è una situazione secondo lei particolare, che io sono un po' sorpreso questa mattina che non vedo reazioni su scuola. Sembra che di scuola in presente non gliene importi niente a nessuno, o realmente di scuola ormai non gliene importa più niente a nessuno. Tu mi dica il suo giudizio, voglio sentire anche Sansonna cosa ne pensa. C'è qualcosa nella carriera artistica di scuola per cui è uscito dall'immaginario, pur avendo lasciato dei punti fermi notevoli? Secondo me scuola è stato un po' messo in ombra dai tanti, troppi grandissimi autori che lui ha usato tutti, praticamente Alberto Sordi, Gassman, Manfredi che era amatissimo anche da scuola, Sattaflores che va a Lascio Raddoppia. Però volevo dire questo, a noi è servito anche per far capire ai nostri figli, ai nostri nipoti, com'era la vita di quegli anni. Io fino a 20 anni ero a Roma e Roma era così, era in bianco e nero come la fa vedere nel pezzo della... Questo, Luigi, è una tesi che io e Sansonna portiamo avanti da parecchi anni. Noi siamo convinti che un giorno l'umanità vorrà avere un archivio di quello che è stata, e avrà varie maniere di attingere, potrà vedere i documentari, potrà vedere gli sceneggiati Rai, le revocazioni, ma il vero archivio degli anni che vanno dal primo dopoguerra fino ai primi anni Ottanta è proprio in questo tipo di film, Giuseppe. Sono d'accordo, e forse quello che sconta scuola in questo oblio che tastiamo un po' stamattina è anche il cinema dei suoi ultimi 30 anni, se vogliamo, che non aveva la stessa presa fotografica, corale, d'insieme di quello che invece andiamo a trattare, quello che riguarda più gli anni 60, 70 e parte dell'inizio degli anni 80. Lì aveva colto, era collegato, era in perfetta sintonia col proprio tempo. non è che si può pretendere, naturalmente un artista, certo, una vena inesoribile per tutto il corso della sua carriera. La fase più bassa, come succede molte volte, evidentemente è quella più vicina al ricordo e quindi non degna di essere ricordata. E cosa dobbiamo fare? Andare avanti, sì, andiamo. Jesuit l'éditeur di Salvio, mes collaborateurs, ragionier Palmarini e Pedro Ladron notre guide. Ah, italiani! Di Roma? Per colpa di un grande maledetto italiano, uomo orribile, brutto, che viene a me alla frontiera tra Congo e Angola, offre armi in vendita, io gli do tutto il mio denaro, 10.000 sterline. Avete visto voi queste armi? No. Moi non più. Sparito come argento, senza armi, mio battaglione, attaccato dal nemico, si mette in fuga. Noi scappiamo in Angola. Sapevo che questo traditore stava in Angola, ma un mese fa mi dicono che lui era già morto a Vacumbos, mordu par un serpente. Un'altra storia surreale, però divertente. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? Siamo nel 1968, il titolo è legato proprio ai fumetti ed appendice che Scola amava e da cui proveniva appunto come sua provenienza originaria. Qui c'è Manfredi che ha deciso di abbandonare l'Occidente e si è rifugiato, un po' cialtronesco e un po' appunto avventuriero, in Africa, e il cognato Sordi parte col Bernard Brier e va all'avventura a ritrovarlo e scoprono un'Africa popolata. Ecco, qui si tasta anche ancora una volta in maniera giocosa, fumettistica, delle piaghe come la vendita di armi, come le truffe fatte sul territorio africano dagli europei. Certo, non è l'Africa di Checco Zalone. No, esatto, qui c'è il cortocircuito con l'attualità. Visto che nell'immaginario attuale dobbiamo dirlo. Pur nella giocosità, qui è un'Africa in cui trapela la disperazione, cioè la commedia, ripeto, ci sono i grossi incassi che sono sempre l'alibi dietro cui si nasconde tutto e si fa, cioè, Checco Zalone fa grossi incassi. Anche questi film facevano grossi incassi, però ti mostravano anche la vendita di armi, tante piccole piaghe, tante piccole nequizie che facevano parte anche dell'Occidente. Cioè, il lato oscuro della forza che esiste, oscuro, sì, e giustamente va sottolineato. Diciamo, anche Manfredi non spesso era spesso il più divertente. Certo, Manfredi non era Kurz, ma era una appunto di Cuore di Tenebre, ma era una visione comunque più da commedia. In ogni caso, Sordi ha la tentazione anche lui di rimanere in Africa, di non tornare nel benessere un po' fatuo che lo aspetta al ritorno in patria. 800240024, la vostra ultima chance dopo questa pausa di parlare di Ettore Scola. Melog. Cronache meridiane. Ecco. Il mio malessere è il seguente. Può un sistema nervoso essere innamorato ugualmente di colui che l'ha corcata di botte? E cioè alluda Oreste. A mente fredda penso che lo odio. Giuro di mai più rivederlo, ma so che mento a me stessa. Ora mi spiego. L'altro, il secondo, Nello, mi appaga sia sul piano umano che su quello dei sessi. Ma poi il ricordo del primo, Oreste, prende il mio sopravvento e io mi ritrovo a desiderare proprio colui che mi ha menato in un'insonnia notturna che non mi fa dormire. Ma di che natura è il mio male? Ho avuto un trauma, sono sotto shock, è un disturbo neurovegetativo o è perché sono mignotta? Lasci stare i termini scientifici. Il suo malessere dipende. Nemmeno su questa epica domanda riesco a convogliare l'interesse degli ascoltatori. In questo caso, qual è il tema? Questo è il dramma della gelosia. Siamo nel 70, c'è una strepitosa Monica Vitti. E qui c'è la grandezza di Scola di dileggiare anche i suoi amici nemici, come Antonioni, ovvero qui c'era la Vitti che invece di stare la musa di Antonioni. Invece di stare a registrarsi da sola, va dallo psicanalista della Muto in questo posto pieno di pazienti che parlano a sé. Parlate fra di voi, fate terapia di gruppo, dice lo psicanalista nel corridoio in cui tutti cianciano con tutti. E quindi c'è questa figura che si confessa sospesa un po' nel triangolo fra un Giannini guizzante e giovane e un insolitamente taurino Marcello Mastroianni, che invece appunto è l'altro polo. Il dilemma è Donna Flor fra i due mariti, quello tutto carino, simpatico, scavezzacollo e puttaniere morto, e quello attuale che era un rigido e matematico copulatore però molto serio, e lei era divisa fra i due. Anche qui si ride ferocemente, e ci sono però dei momenti anche di in cui c'è la morte, nella commedia entra la morte, entra il dolore, e appunto c'era una visione di grande ritmo, di grande intelligenza, ma non consolatoria della commedia. Pino da Roma, buongiorno. Buongiorno, un saluto carissimo a tutti, al buon Cianzon e al mio amico Intonti. Volevo dire che non voglio credere che questo paese abbia poca memoria, forse è un po' distratto, perché Ettore Scola, a parte essere stato con Maccari un grandissimo sceneggiatore, è stato un grande rivoluzionario nel cinema italiano. Io l'ho conosciuto nel 72, ero suo aiuto regista al Festival dell'Unità al Piazzale Flaminio, e ricordando Dramma della gelosia, il film comincia proprio in questo modo, con una festa dell'unità. Per quanto riguarda il linguaggio, ma forse quello è proprio il motivo per cui oggi sei un po' appannato. La festa dell'unità fa parte, volevo arrivare proprio fa parte dei simboli ormai logorati dall'abuso che ne è stato fatto, purtroppo. Però Nicoletti, ci sono delle cose incredibili che vivono ancora. Ad esempio, noi ci diciamo sempre tra gli amici "si vediamo", come la splendida Monica Vitti dice in Dramma della gelosia, oppure molte volte quando diciamo "vuoi un po' di pasta?" No, non mangio idrocarburi, come dice Giovanna Ralli. Ma noi siamo in via d'estinzione, questo devi rendertene questo conto. Devo dire, però la memoria è fondamentale. Allora, dobbiamo per forza far sì che questi film vivano ancora. Non a caso domani alle 11.30 la Salma è alla Festa del Cinema. I nostri ragazzi devono conoscere le grandi opere. Del cinema, a Villa Borghese, sì. Sì, a Roma, domani alle 10:30. Cioè, i nostri ragazzi devono riavvicinarsi a questo tipo di cinema, al cinema di Pietrangeli, al cinema di Scola. Guardate che con Pietrangeli Scola ha lavorato tantissimo. E mi dispiace, appunto, ma non so, forse è solo un caso che non ci siano telefonate. No, guarda, io ormai è un polso che conosciamo bene, che mi dà un po' l'idea, chiaramente empirico, non ha nulla di scientifico, ma la reazione del pubblico della radio è molto significativa del sentire generale del paese, perché statisticamente una radio spalmata sul territorio nazionale, con un'abitudine d'ascolto, con una capacità molto vivace di reazione. Ti posso dire, in coscienza, prendendo la responsabilità, che la percezione generale, e Giuseppe che è con me spesso questo microfono, rispetto al cinema di Scola è appannata. Vuol dire che comunque sia, come dici giustamente te, occorre fare, se diamo un valore a queste letture della nostra storia e a questa capacità di creare dei frammenti da discutere sulla nostra storia, che qualcuno lo faccia. Mi sembra, tu sei Pino Leoni o sbaglio? Avevo capito, sei un regista Rai, il servizio pubblico si muova, invece di mandare in prima serata quegli orrendi sceneggiati o quelle fiction in cui le ricostruzioni storiche sono totalmente incredibili, che danno visioni artefatte del passato, manda di film e cerchi di convogliare l'interesse su questi film. Marino, buongiorno. Grazie, Marino. Sì, buongiorno. No, porto una testimonianza di Scola, perché anch'io, avendo 54 anni, praticamente l'ho un po' subita, tra virgolette, nel senso buono, e soprattutto su una giornata particolare, quando Mastroianni e la Loren sono su questa terrazza e si vede questa Roma tra centro, borgate, periferie, e dà una tristezza e dà una desolazione e dà dei silenzi che veramente solo un grande come lui è riuscito a dare in questi piccoli frammenti, e ricordando che poi anche negli altri film. A me quello mi ha molto lasciato così. Era la giornata che Hitler veniva a visitare Roma. Oggi tali silenzi dalle terrazze romane li vede solo le giornate di derby, che però non sono mai in orario pomeridiano, raramente, quindi non accade più qualcosa del genere, se non magari il giorno di Ferragosto. Alessandro. Sì, ciao, buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Io sentivo la tua trasmissione e volevo dirti un po' quello che può essere la mia esperienza. Io di Scola sinceramente mi ricordo soltanto I Mostri con Manfredi, perché secondo me è stata una pellicola che rappresenta... Era un film a episodi, con un episodio dei Mostri. Esatto, quello con Manfredi che sono in una baracca... No, con le Brutti, Sporchi e Cattivi. Brutte, Sporchi e Cattivi, è un film completo, sempre... sì. Quello alludi te, Brutti, Sporchi e Cattivi, sì. Perfetto. I baraccati di Valle Aurelia, sì. E mi ricordo che mi ha lasciato disturbato, perché è una rappresentazione di personaggi che sono veramente brutti, sporchi e cattivi. Sì, ma tempo, eravamo noi perché... una ventina d'anni fa, nel quartiere Aurelio di Roma, Prati Aurelio. È un film che Trofale, cioè, è un episodio che mi ha veramente colpito, perché è una presentazione secondo me veramente eccezionale di personaggi, perché poi uno Spesso nei film italiani il brutto e il cattivo poi in realtà è sempre qualcuno. Ma era una cosa paradossale, no? Era il momento dell'apoteosi, del boom economico, e ancora c'erano delle sacche di miseria nazionale evidenti nel cuore delle grandi città, davanti al Vaticano, tra il Vaticano, diciamo, e la villa dove si fanno gli incontri di rappresentanza di governo. Questo è il problema. C'era il televisore imperante, no? Che raccontava di tutto, c'era il telegiornale come sacro totem all'interno di questo. Mi ha ricordato quando di recente sono stato in Africa e c'erano i televisori che rappresentavano la Premier League nelle baracche di Nairobi. Nairobi, no, 2007, recentemente, insomma, qualche anno fa. 2007. Però era quella dinamica, no? Il faro acceso catodico all'interno e intorno a tutto macerie. Ma quindi, per lavoro o per piacere? No, no, per lavoro. Ho fatto un documentario. Fatto? Un documentario sul World Social Forum del 2007. Vabbè, a Korogocho, a Nairobi. A Korogocho è una grande discarica a cielo aperto dove vivono migliaia di però persone. C'era quella dinamica di guardavano di continuo le repliche delle partite del campionato inglese di calcio in questo posto. Uno sterminato immondezzaglio dove vivono un lager, tutto sommato, perché si muore come mosche. Certo, sì. Soprattutto se ci vai te che non sei immunizzato, muori subito. Massimo. Buongiorno, sì, Massimo. Buongiorno. Allora, piacere, ottima trasmissione, tutte le cose belle. Siamo professionisti. Ho sentito quello che avete detto prima, commentavate il fatto che nessuno si interessa della morte di Ettore Scola, e l'ho notato anche io al lavoro. Io ho 43 anni, non sono magari più maturo come voi, però sono cresciuto... Cioè, vuol dire che è più giovane di noi, ne prendiamo atto. Guarda che Sansone è più giovane di lei, sembra vecchio. Voi siete più maturi, avete qualche anno in più, io ne ho 43. Ma tu sei più giovane. E non li ho visti. Io ne faccio 39 questa. Sansone è più giovane di lei, sembra allora, vecchio. E allora è la radio che... No, è vecchio allora dentro, il suo problema è vecchio dentro, quello è il suo problema. Grazie. No, Sansone non ha nemmeno 40 anni, guardi, è un ragazzino. Potrebbe essere allora mio figlio. E allora la voce che lo fa sto omone, sembra sì, un omone. No, ma in realtà è un microdotato. Me febo. Beh, allora... No. Dai. No, volevo dire, allora, io ho 43 anni, non li ho visti tutti, però le scenette che avete fatto sentire voi me le ricordo, di Monica Vitti, e sono cresciuto con questi film, forse perché c'erano solo quelli. Adesso forse la troppa offerta... No, guarda, c'erano tantissimi altri, c'erano dei fantastici film di caserme, di dottoresse, di stretti militari, c'erano tanti film. Erano film di prima scelta, diciamo, quelli che andavano a vedere i genitori, i figli andavano altrove. Giuseppe. C'era una scelta stratificata, si producevano 400 film all'anno, c'erano le varie colorazioni della tavolozza, era possibile però fare entrare, qui si parlava della sgradevolezza ancora una volta di Brutti, Sporchi e Cattivi, ecco, potevano entrare queste tematiche diluite in commedia. O diciamo, in televisione c'erano due canali, il film andava il lunedì. Ti ricordi? Sì, fine. Sì. Quindi andavi al cinema, c'era prima visione, seconda visione, il Pidocchietto, il cinema dei preti, di parrocchia, il cinema di sé. Te li rivedevi andando al cinema, ma in televisione non è che c'era questa offerta di cinema. Non erano ancora arrivate le TV locali che potevano permettere, davano poi liberamente. Non c'era Netflix, che ci sono migliaia di film che sto impazzendo io perché non so più dove mettere le mani adesso. È diversa la cosa. Però non ci saranno i film di Scola. Non so perché in questi bouquet dei nuovi trasportatori di immaginario non ci sono questi film. Guarda, non ne ho idea, sinceramente io trovo qui i sintomi di quello che poi sarebbe diventato il paese, quindi sono d'accordo con Leoni quando parlava della necessità comunque di ricollegarsi con la memoria a questo tipo di cinema. Poi i collegamenti in memoria sono spontanei, quelli artificiali, portiamo i giovani, quando uno porta i giovani da qualche parte i giovani si mettono presentare, non portare, non inculcare, presentare, mostrare, dare la possibilità anche di ciò che si vede può io sarei più fatalista, io abbandonerei alle nebbie dell'oblio ogni icona del mondo raccontato. Se sopravvive vuol dire che era degna di essere un elemento di sopravvivenza, se rimane seppellita è giusto che sia così, non è questo accanimento terapeutico rispetto alle opere d'arte, non ci deve essere, l'arte sopravvive a se stessa, se no altrimenti è un'arte transeunte come siamo transeunti tutti noi. Grazie Sansone. Grazie a te.